sia andato a finire così, in questo modo, sì, la gente dice il computer, il telefonino, è questo, è quant'altro, ma io ti aggiungerei anche un po' la maleducazione che c'è stata negli anni passati, che magari c'è ancora oggi, è quello che sta dicendo Gigi. Che è vero, perché anche i radioamatori, ascoltando le bande radioamatoriali, si fanno degli iscritti non indifferenti, e non è escluso che possa essere anche un radioamatore che fa lo stupido proprio per dare fastidio a un suo collega patentato, perché non si sa, in aria le onde radio non le possiamo vedere, dunque non possiamo nemmeno sapere con precisione da dove arrivano, se non c'è uno strumento ben preciso e un controllo efficace da parte delle istituzioni per nostre, capito? Perciò cosa volete dire? No, speriamo bene, cerchiamo di crescere mentalmente tutti quanti, io dico così generalizzando, non perché voglio dire che voi siete delle persone assolutamente paralizzate, ci mancherebbe altro, io non mi permetto di mai dirlo, mi ci metto anch'io comunque in questo discorso, perché no? Perché tutti siamo, tutto sommato, siamo tutti bravi e tutti colpevoli. Avanti a tu. Ecco, dalla città di Ferro. Antonio, non dipende, io registro il break, lo faccio venire avanti subito. Ciao Alessia, avanti. Ciao Giulio, buonasera. Buonasera Gigi, buonasera Massimiliano. Se non sbaglio c'era anche Antonio Cordo, buonasera circolari comunque. Da queste parti grande bufera, grande vento, insomma, è freddo, e penso anche dalle vostre parti. Ok, dai, ero qui che stavo svolgendo altre cosette, diciamo, riguardo al tabacco, intanto ero un attimino con l'orecchio che ascoltava un attimino i vostri discorsi, diciamo, e quant'altro. Non è che stessi facendo le piccione o cosa, io di solito quando sono a casa svolgo diciamo quello che mi rimane del tabacco, e quindi ho a disposizione la radio, la scende così eventuale diciamo ascolto tutto lì. Ok, Massimiliano, per mai che fai girare? Sentito che stava dicendo qualcosa che stava Massimiliano, non vorrei che mi spugga, ma mi pare che ha detto che si stava assentando, adesso non vorrei la confusione, perché mi sembra detto una cosa del genere. E ya, ciao Sandro, ben entrato, dai. Niente, perché prima sono passato del 12 e sentivo a Giulio e non capivo se era nel 12 o nel 10. No, però ce l'avevo su un altro baracchino, allora ho acceso questo e questo no, è diverso, dai, è più, diciamo, è più preciso come di ricezione, come cosa, dai, e sento di meno gli sbratti. Invece nell'altro sentivo nel 12 come era nel 10 Giulio, lo sentivo chiaro come nel 10, lo sentivo nel 12, nell'11 no, ma nel 12 sì, no, ho capito come funzionava questa cosa, e poi visto che c'era anche tu nel 12, non so come sia successo, lo sentivo uguale come nel 10, nel 12, ma nell'11 no. Non so, Gigi, evidentemente quel baracchino è a conto suo, non certo questo mio, ti posso garantire, non certo questo mio, sarà stato cacciavitato e allora diciamo che sconfina di frequenza, non lo so, vabbè dai, abbiamo fatto quattro chiacchiere, speriamo bene ragazzi, ma vogliamoci bene, che è meglio, vogliamoci bene tutti quanti ragazzi, perché è anche nel nostro interesse, inutile stare lì a discutere di certe cose, anche se è un argomento che si può fare, per carità, tutti gli argomenti, ma io questo argomento l'ho preso perché stavano parlando Antonio e Massimiliano di questo coso, nel caso avuto che ho acceso per un attimino, siccome è mia abitudine fare ascolto sempre prima di entrare in un canale, perché voglio sapere chi c'è, nel senso che in modo che io non possa perdere tempo e soprattutto dare fastidio a nessuno, devo sapere chi c'è e basta, poi se l'argomento mi interessa può posso anche beccare, se non mi interessa, non ascolto, chiudo, basta, non mi interessa più, capito? Io l'ho preso così, io, il mio animo è questo, per me, io voglio bene a tutti, per me sono tutti amici, rispetto tutti, perché è giusto che sia così, anche perché a 70 anni non posso fare l'imbecille, nella maniera più assoluta. E questo mi darebbe molto, ma molto fastidio, questo non lo posso garantire. E per cui adesso dai, faccio un altro paio di passaggi e poi chiudo, dai. Scusatemi, riprendo, mi sono allontanato un attimo perché mi ha squillato il citofono di giù. QRT per me, ti ringrazio Giulio del QSO, ringrazio anche Massimiliano che non ho sentito, anche Claudio che appunto sento se su un'altra frequenza. Saluto anche Sandro e Gigi Vulcano. Ci sentiamo alle prossime, magari anche stasera, se ci dai. QRT per me, saluto anche Giulio, sta uscendo, ciao. Adesso scendo giù e probabilmente arriva anche qualche parente che ci ha detto per sapere se eravamo a casa. Sì, siamo a casa per questa giornata così pessima come oggi, c'è freddo, c'è vento e dunque intanto c'è anche un po' di più, dove andare, ci vediamo sempre ci attivando, va bene, già siamo qua, la porta aperta, ci mancherebbe altro. Vabbè, dai, riprendo adesso, dai, uno o due passaggi e poi chiudo. Ciao a tutti, comunque saluto, grazie anche a te per il QSO. Mi prendi adesso. Ok, ciao Tonio, ho sentito alcuni passaggi, vai, buon proseguo di data, diciamo tutto alle prossimine. Va bene, signori, che dire, ogni tanto ne diciamo una, va bene, io parto sempre dal presupposto, diciamo, uno che ha una passione e cerca di curarla, diciamo, al quanto meglio può. Come diciamo, come quel bambino che ha qualcosa di prezioso e se la tiene stretta e la cura giorno dopo giorno. Logicamente non tutti la pensiamo a questo modo, c'è chi ne fa uso in maniera scorretta, c'è chi lo usa consapevolmente, diciamo, di quello che lo sta usando, a che cosa potrebbe servire, il suo valore e quant'altro. Purtroppo non tutti la si pensano alla stessa maniera. Io parto sempre dal principio che ognuno è liberissimo di reagire, di fare come meglio crede, con le sue proprie idee, con le sue proprie mani. Ognuno è liberissimo di fare come meglio crede. So solo che questo che nella andata avanti, diciamo, dell'esperienza, diciamo, degli anni e quant'altro, poi logicamente uno arriva a un resoconto, diciamo, arriva a un dunque, ma questo dunque, diciamo, è un dunque per tutti, capito? Perché tanto succede questo, lo sappiamo benissimo, tutti nella nostra vita abbiamo un capolinea da rispettare e quel capolinea lo rispettiamo anche se a malvoglia ci viene male, però noi lo rispettiamo. Ecco come stava dicendo Giulio, vogliamoci bene, trattiamoci bene e comportiamoci bene finché non arriviamo a quel capolinea. Ok, non lo prolungo, ci siete al mic. Positiva, mi hai fatto salutare Antonio, non so se è già chiuso. Ciao Antonio, dai, fate un proseguo la serata, se sei in ascolto, ma penso che è già chiuso. E anche Giulio mi pare che voleva scendere giù. Riprendi giù, non so se devi chiudere pure tu. No, senza salutare non ne vado io, ciao Gigi, allora, salutone, sì, sono già arrivati, è arrivato mia cognata con mio fratello. Sì, no, io ripeto, cerchiamo di stare tutti amici, cerchiamo di volerci bene e facciamo un abbraccio generale così, fra fratelli praticamente, in modo che possiamo continuare ancora al baracchino per tutto il tempo che noi desideriamo, perché è inutile stare lì a fare delle stupidaggini, eccetera, eccetera. Ripeto, non siamo noi che facciamo delle stupidaggini, questo ne sono sicuro, le persone che stanno parlando qua in questa ruota non fanno stupidaggini, ne sono più che certo, questo ci metterei la mano sul fuoco, pensa un po'. Però se c'è qualcuno che è in ascolto, che è sempre intenzionato, cretinate, glielo chiedo per favore, non fare cretinate, perché non è il caso, tanto non guadagni niente, non vinci niente quando fai lo stupido, dai solo fastidio alle persone che non ti cercano, tutto lì. Io non sono d'accordo con Claudio quando si lamenta che dice che non rompete le scatole in 5.25, ha ragione, non si deve disturbare nella maniera più assoluta, perché non è possibile, che bisogna, non c'è bisogno di essere maleducati rompendo le scatole agli altri, tutto lì. Adesso è arrivato il mio fratello, mia cognata, vi saluto, grazie per il questo, un abbraccio a tutti, ciao Alessandro, ciao Luigi, ciao Massimiliano se sei ancora all'ascolto, Antonio se sei ancora all'ascolto, Claudio se stai ancora ascoltando, non lo so, forse sì, non è frequente, saluto a tutti, un abbraccio fraterno con tutti, alle prossime, vai, ascolto il vostro filolino, poi chiudo, vai, vai Luigi. Ciao Giulio, una cosa solamente e chiudo subito, guardi, guarda Giulio, ti dico una cosa, se nella 27 sarebbero stati tutti come Antonello Pomponio, sarebbe stata una bella frequenza, ma tutti come Antonello Pomponio. Ma io non ho niente da dire a Antonio Pomponio, dunque io prima di giudicare una persona ne guardo i miei difetti e dunque non lo so, io non ho niente quanto con Antonio Pomponio, non mi ha fatto mai niente, quando ci siamo visti una due volte abbiamo preso un qualcosina al bar insieme, tutto lì, ma niente di particolare, dunque io Antonio Pomponio non ho niente da rimproverare, dunque come non ho niente da rimproverare a te, non ho niente da rimproverare a Alessandro, né a Massimiliano, anche se non ci conosciamo in persona, però basta capire da quel modo come modulano per piacermi, insomma a me la persona mi piace solo quando la sento al baracchino, dal tono di voce, dal modo come si comporta, già me ne faccio un concetto e so, questa è una persona che merita e questa è una persona che non merita, tutto lì, e poi ognuno lo si comporta come crede o lui, cosa volete dire? Allora, ci sentiamo, ciao Luigi, ciao Alessandro, vai ascolto il tuo finalino e poi non so se c'è Massimiliano, io chiudo, non appena sono finito di fare il vostro finalino, vai, ciao a tutti, riprendi Alessandro. Ok, dai, ho cambiato un attimino apparato perché in quello là diciamo troppi frusci causa diciamo del maltempo. Ok, ciao Giulio, fatti buona serata, buon tutto, dai, e alle prossime. Vabbè, cosa vuoi dirti? Ripeto che ognuno è liberissimo di pensarlo a come meglio crede, poi quant'altro, riprendici. E a positivo, no? Io ho tirato in ballo Pomponio perché Pomponio è una persona serissima, io non l'ho sentito mai sgarrare a baracchino Pomponio, Antonello, ecco perché ho tirato in ballo. Se sarebbero stati tutti sinceri e onesti come Antonello Pomponio, sulla 27 sarebbe stata una bella frequenza. Perché l'ho detto, lo dico sempre io, perché Antonello Pomponio è l'unico io dei tanti anni che ho sentito, non ho mai sentito una cattiveria da parte di Antonello Pomponio, ecco perché l'ho tirato in ballo. Se sarebbero stati tutti a livello di Antonello, sarebbe stata una bella frequenza, capito? Quello intendevo dire io, già. Conforme di tutto l'erba un fascio Gigi, che non è esattamente così. No, potremmo essere tutti come lui o anche meglio. Bisogna sapersi comportare all'altro. Massimiliano, io ho tirato in ballo Pomponio perché Pomponio è una persona che sa comportare, perché io in tanti anni che lo conosco non ho sentito mai una cattiveria da parte di Pomponio, per dire. E si è sempre comportato bene, ecco, ti ho dato un esempio, è un esempio di persona, hai capito? L'ho tirato in ballo perché è un esempio, proprio è una cosa eccezionale Antonello Pomponio, capito? Su serietà, capito Massimiliano? Ehi, una curiosità. Ciao Sandro, buonasera, ben sentito. Ciao, facciamo Massimiliano, buonasera anche a te. E ben ascoltato, dai. Ok. Allora, aspetta un attimino che io ho attaccato Gigino, avrà capito qualcosa, che cosa? 8.001, lo possiamo anche dire. Ok. vi piacerà. No, Massimiliano, non vi piacerà. Ok, Gigi, vedi un po' di darmi una centratura. Gigi, ti posso rispondere? Niente, ho classo, mi puoi riprendere quando vuoi, perché in esperienza ne hai più di me, e mi puoi riprendere quando vuoi, mi puoi correggere quando vuoi, tu qua, io te lo permetto sempre a te, tu lo sai. Non è modo più assoluto, risalutando tutti quelli che sono al canale 10. Io quello che volevo dire, Gigi, lo dico con molta sincerità a tutti, che alla fin fine anche una persona brava perde la pazienza, capito? Perde la pazienza. Perde veramente la pazienza, perché io manco un mese dalla 27, perché sono impegnato a fare altro nel radio, però continuo ad ascoltare, non c'è mai un cane, eh? E quindi vengono lì a rompere le scatole, ok? E questo non è giusto, né nei confronti di un CB, e né nei confronti di un radioamatore come me, che tra l'altro fa anche il CB, e che gli amici, quelli più stretti, quelli che tutti i giorni si sentono in radio, ce l'ho qua nella 27. Quindi credetemi, ho perso veramente la pazienza e sono disposto a questa cosa a sistemarla. Io non voglio, per carità di Dio, assumendomene tutte le responsabilità, dare colpe a qualcuno di voi, ma sono pur certo e siamo pur certi, noi radioamatori di Sassari, che sono i CB che stanno disturbando, perché è impossibile, nessuno viene dalle montagne o dalle campagne a rompere le scatole alla gente. Ok, o traslare a Claudio Sparviero nella 27, è una vergogna e soprattutto un reato punibile con la galera, andare a disturbare nelle bande radioamatoriali e traslare nella banda cittadina, è un reato, toglietevelo dalla testa, che io parlo in generale, che si tolga la gente dalla testa, che disturbare nelle frequenze amatoriali, ok? E possedere una radio VHF, UHF, ricce e trasmettitore per chi non ha la patente è un reato passibile con la galera, non con una lettera e un ammonimento o un'espulsione come fa l'arbitro di calcio, c'è la galera, quindi state molto attenti perché ci siamo veramente rotti le scatole e si è perso la pazienza, Gigi, e proprio perché ne ho le scatole piene. Da quando non sto parlando più qua, vengono a rompere le scatole lì. Quando parlo qua, rompono le scatole qua. Non va bene così, non va bene. Io un consiglio l'ho dato a tutti. Poi, chi non lo accetta il consiglio, continua a fare quello che sta facendo. E prima o poi tu vedrai che le suona al campanello, perché io, e lo ribadisco, lo ripeto ancora una volta, sono in grado di dare nomi e cognomi all'autorità competente di chi a Sassari c'ha il VHF, l'UHF e il ricce trasmettitore HF. Quindi stiamo molto attenti. Questo ti volevo dire, Gigi, che io non ce l'ho con nessuno, ce l'ho con chi rompe le scatole, e alla fine anche la persona buona, la persona che ha sempre coperto a tutti, in questo caso io, perde la pazienza, l'ha già persa. Oh Claudio, hai pienamente ragione tu, però hai sentito quello che ha detto Giulio prima, non so se tu eri, ti eri spostato nella tua frequenza, cosa ha detto Giulio, ha detto una cosa giusta, che in passato i radioamatori invitavano ai CB a prendersi il VHF, a prendersi e loro, i radioamatori che invitavano a un CB a prendersi quella radio lì, cioè, questo l'ha detto Giulio poco ed è vero, e questo è vero Cla, perché a me qualcuno me l'ha invitato di prenderlo e me l'ha costretto di prendere qualche amico radioamatore e io non ne ho, tu lo sai che io non ne ho, però me l'ha invitato a prenderlo, ecco, e queste cose sono voi stesso radioamatori che ce l'avete invitato a noi a prendere, capito? E anche quello è sbagliato, da parte vostra è sbagliato, tu non mi pare che non me l'hai mai proposto, però qualche d'un altro me l'ha proposto, me l'ha dato, poi gliel'ho ridato, hai capito? E anche questo c'è da valutare, Claudia. Però non è giusto che per qualcuno di queste qua ci devono piangere anche gli altri, questo è il problema, capito? Tutto qua. Io sono d'accordo con te, Gigi, e sono sempre d'accordo e solidale con tutti, tutti i colleghi e amici CB. Ok? te lo dico questo, ma è mai possibile se io ti invito e ti dico, guarda, prendi questa radio perché puoi ascoltare, puoi capire, puoi vedere, insomma, è meno monotona la cosa di avere un 40 canali, magari non c'è nessuno, te ne vai a fare ascolto. Ma è possibile che io ti abbia dato una pistola e tu ti vuoi ammazzare? Se usi la pistola, usa la scarica, non usare carica, perché ti puoi fare male, Gigi, e questo è il concetto della discussione, capito? Perché nessuno è geloso di nessuno vuole impiccare a nessuno, ma porca miseria, io sono entrato stamattina alle 5 in radio con Walter, e questo imbecille, deficiente, dalle 7 del mattino che continua a schiacciare il BTT, dalla frequenza monitor di Sassari, non ne basta, e ti tratta anche in 27, ma stiamo scherzando veramente? Così non si fa, nel modo più assoluto, perché è senso di educazione, è senso di vita. Se veramente uno ama la radio, perché il radioamatore è uno che opera in radio, attenzione, un amatore della radio è un GB, un SWL, ma se veramente sei amante della radio, queste cose non le devi assolutamente fare, perché sei da arrestare, sei da tagliare la testa, capito? Perché nelle bande amatoriali c'è un segreto di Stato, ci sono cose che non devono uscire dalle bande, e tu fai ascoltare le cose agli altri, sei da arrestare, capito? Ti hanno dato la pistola e la stai usando carica, usa la scarica, questo è il concetto, fai la persona grande, fai l'uomo, non andare a rompere le palle a chi non ti sta cercando, sempre questo è il concetto, ok? Sempre il rompimbale che sono, compreso là. Il rompimbale ci sono da voi e ci sono da noi, perché anche da noi quando due persone si stanno facendo un discorso, ta, portante, tu già lo sai meglio di me, portante, anche quello lì rompe le scatole. E anche quest'estate è successo che qualche radioamatore ha traslato qualche uno di noi 27 e questo non lo può fare lo stesso. Cioè il rompimbale c'è sia da voi che da noi, non è, hai capito? Ci sono da tutte le parti, perché lo sai benissimo, le portanti sono sempre esistite, i rompimbale ci sono sempre, però vabbè, comunque va bene lo stesso, va bene lo stesso, però non lo so per fin quanto convenga fare nome e cognome, secondo mio parere personale, poi tu sei libero di fare quello che vuoi. Permesso? Io non ho niente da perdere, Massimiliano, è la terza volta che glielo dico, non ho niente da perdere, io proprio non ho niente da perdere, nessun radioamatore, ti posso assicurare al 100%, non ho niente da perdere, perché siamo tutti documentati, patente e libretto di circolazione, ok? E tra l'altro forse io sono l'unico, come ho già detto poc'anzi, a chi era al telefono con me, che appunto è una delle persone competenti in materia, come ho già detto io sono l'unico che posso levare la voce, l'unico, sai perché? Perché pago anche la concessione per la 27, ok? Non ho mai smesso di pagarla, pertanto mi sono rotto le scatole che continua la gente a comportarsi in questa maniera, nonostante ci siano quattro gatti, continua a rompere le palle nelle frequenze materiali, questo non va bene, io non lo sopporto, perché Gigi ha detto una cosa giusta e sacra, ok? O Sandro che l'abbia detta. Io ho una vita che faccio radio, capito? Avevo 14 anni quando mi sono seduto dietro al microfono, ho sempre curato queste cose, non ho mai rotto le palle a nessuno, quando mi sono dovuto attaccare una banda cittadina mi sono sempre difeso da solo, non ho mai chiesto l'aiuto di nessuno, però qua stiamo uscendo fuori dal pisciadoggio, capito? Le frequenze amatoriali non si toccano fino a quando ci sono io. Se qualcuno vuole stare tranquillo 27, se qualcuno poi ha qualcosa da dire, allora si deve riferire a me. Però se qualcuno continua a disturbare il 27, Massimiliano, io faccio saltare in aria tutto, sai cosa vuol dire tutto? Perché non ho assolutamente niente da perdere. La banda amatoriale non si tocca. Le mani che se le mettono nel culo col PTT e lasciano parlare i radioamatori tranquilli e sereni, perché i radioamatori non vengono qua a rompere le palle. Punto. E non lo dico più. Ehi, ho capito quello che vuoi dire. Io non ho capito quello che ti voglio dire io a te. Secondo me, secondo mio parere personale, personale, secondo me non conviene fare qualche nome, perché c'è qualche radioamatore che non è in regola lo stesso, capito? Non è perché uno è radioamatore in regola, è tutto lì, comunque non usciamo fuori, non me ne frega un cazzo di niente. Comunque, chi c'è a farsi una chiacchierata va bene, poi fai come vuoi, classe, il grande vaccinato, mica ti devo dire io quello che devi fare. Ecco, dato il break, e che cosa, e quali sono le radioamatori che non sono in regola? Ma ti pare te che un radioamatore non è in regola? O ti riferisci forse perché un radioamatore dice la portante e parla con una HF il 27? Guarda, io qua ce l'ho la 48 omologato, capito? E la quale radio l'ho lasciato, quindi non ho niente da perdere, ti ho detto. E come tutti i miei colleghi, quelli che a volte travano il 27, sai pur certo che c'hanno il baracchino omologato vicino alla stazione radio HF. Sai pur certo, Massimiliano. Il contrario invece è un altro, che molti CB non usano le radio che le competono, ma usano quelle che non le competono. Parlo di HF, non di radio che a me non interessano, con l'Ecco, con lei. Non me ne affutto un cazzo a me di questa cosa. Ho detto che i radioamatori non si toccano, io non faccio l'elenco del materiale che ha la gente, faccio solo il nome e cognome di chi sta rompendo le palle, perché sono pur certo e tranquillo e sereno, tranquillo, perché è già una settimana che sta girando il radiocognome tra Sassari e siamo al 90%, tu vedrai che quel 10% è già salta fuori. Avanti break, 4-1, buonasera a tutti e buona domenica. Non rompano le scatole in banda amatoriale, perché qualcuno la paga, ma la paga molto pesantemente. Metti la portante, mettila. Va bene, facciamo entrare a Sandro. Sandro? Ok. Oh, finalmente, dai, finalmente. Ok, buonasera a tutti, ciao Claudio. Claudio, non ti incazzare Claudio, che non risolvi niente, ti incazzi, ti fai il sangue amaro, non risolvi niente, l'hai detto giusto, sta girando il radiocognometro, fai girare il radiocognometro, ma che giri però questo radiocognometro, e alla fine dei conti si faccia avanti questo radiocognometro, non perché io abbi niente in contrario, diciamo, con nessuno, perché io continuo a ribadire che ognuno con la propria testa, le proprie mani, libero di fare quello che vuole. Tutto lì, vabbè, comunque, l'argomento non mi interessa, non voglio entrare in merito e quant'altro. L'unica cosa che ti posso dire, qua, statene tranquillo, calmo, non ti cazzare perché non serve a niente. Guarda, anche adesso mentre stavo parlando qua, infatti adesso sto cercando di telefonare a una persona, anche adesso mentre parlavo qua ho messo la portante 525 per farmi sentire la modulazione. Sei un animale, hai capito che sei un animale? Sei una persona che vale meno di zero e fra un po' varrai ancora meno di zero, perché ti faccio togliere anche le mutande. Oh, calma, ma sicuri al 100% siete che non c'è B, sì? Alla grande, vai tranquillo. Alla grande, tutto alla grande. Senza nessun problema, ti ho detto. Sappiamo anche già la zona. Purtroppo la zona è molto grande. Sì, vabbè, no, è così, giusto per sapere se non c'è B o qualche altro. Ma devo già parlare con uno? Non ha senso. Togli la portante, l'efficiente, argino che non c'è altro. E mi stanno ascoltando i miei colleghi radioamatori, ho detto di ascoltare tutti sul canale 10, hai capito? Vedi che c'è anche deficiente. Tu che cosa hai detto per chi vuoi? Tu che cosa hai detto per chi vuoi? Ma se lo fa, poi quando la trovano ti fanno la festa, no? A tutti di là la roba, tanto non può fare. Magari ora ci vuoi che siamo anche radioamatori, non lo sta facendo, non penso che sia un CB. Perché un CB, io sono sicuro che magari ha più paura di un radioamatore. Ma no, un radioamatore neanche se lo trovano, sanno chi è, si fa tutte figure. Però un CB ha più paura, fa l'impresa, si va, se mi trovano questa cosa, bomba, trovate roba tutti i dinni. Magari ci tracca, pure se lo trovano ancora meglio per voi, no? Ma secondo te un radioamatore chi c'è la portante fa sentire la voce mia nel canale 10? No. Allora è proprio handicappato, certa gamba e certa testa. Vabbè, io sono io che vengo qua a rompere le scatole ai CB, perché me ne guarderei molto bene. Buona domenica a tutti, ci sentiamo, ciao ciao. L'Espagna mi ha fatto incazzare, comunque buonasera a tutti. L'Espagna mi ha fatto incazzare, è la stessa cosa che facevamo non prima, quando mettevamo la portante qua, che quando dicevamo fare questo o sì, cioè sì, io. Le parole tranquille, e poi diceva, entrava a rompi coglioni come sempre. Ecco lo stavo facendo là, sempre per far incazzare a Claudio, perché magari ci crede questa persona qua, che Claudio è un dio, che Claudio è qua. Sai quando mi ha fatto incazzare, fidati. Io ma quello non va giù più nuda, ma giù in tutto mi sa parecchio. Questo non so, guarda, il macchino è acceso molte volte a volume basso, ho visto il segnalone, adesso non mi ricordo chi stava parlando, sta con Antonio, Bugia Antonio. Ho sollevato e mi stavo ascoltando tutta la sera, ma a tutti i tu la se non va. E poi mi ha fatto incazzare. A più tardi vado come una luce, ciao. Boy. sistema di cluster che praticamente, non te lo farò vedere quando vieni qua, dove come acceso c'erano questi passaggi, praticamente un controllo automatico a livello mondiale di tutti i radioamatori in tutto il mondo che stanno parlando. E siccome c'è questo DXC a livello mondiale, quindi in 3 giorni su tutte le frequenze, e molti radioamatori di Sassari stanno facendo questa cosa, come me, come Walter, come tanti altri. E stamattina mi sono alzato presto, mi sono messo in radio, cuffie in testa, e ho visto che erano... Non avevo tra l'altro neanche cambiato l'orologio, e quindi mi sono... La bagna abbassata di grandi, no? E quindi mi sono un po' lasciato andare, capite? Ma mi sono accorto che era tardi, tutto qua. Ma non mi sono dimenticato che dovevo scendere da te, capito? Mi serve un prestito, devo comprare una, ho visto una bella radio, bella grande. Di solito quel REM è 9 più 10. Beh, una grandinante no, perché ci stai buttando in tutto. Non c'è problema, Sandro, 5 li ho già spesi, guarda, 5 li ho già spesi. Gli altri 5 me li ha sequestrati l'anonima, già mai capito, no? Quella che dice con la A. E mi ha detto, scegli tu che te ne taglio la testa. Cioè, chiedili a lì. No, a lì non devo chiedere niente, devo mandare solo a te. A me me ne servono tre perché ho visto una bellissima radio, guarda, me ne sono innamorato. Vabbè, quando vieni qua ne parliamo, dai. Io ho preso il quadribanda della Kenwood, il 10-2000, basta, con anzi 5 bande perché ho fatto aggiungere anche la scheda dei 1200. Perciò ho preso quella e va bene così. Non c'è problema. Comunque, a parte gli scherzi, il discorso è questo. Oggi mettiamo veramente la mano sulla coscienza, diciamo siamo uomini, e allora quando si affronta una cosa si affronta faccia a faccia. Non se qualcuno ce l'ha con me perché sono radioamatore, perché parlo nelle bande amatoriali, qualcuno è geloso, non lo so. Il mio invito è stato sempre verso tutti, no? Come ce l'ha fatta Fabrizio, il 26 di ottobre ce l'hanno fatta altre 2 persone di Sassari, quindi tanti CB stanno provando a diventare radioamatori. Il mio invito è sempre quello, a chi veramente piace la radio come me e come tanti altri, che se la prendano la patente, che studino e fanno uno e l'altro, così hanno la detenzione e l'uso anche degli HF, dei VHF, degli UHF e non stanno a rompere le palle a nessuno. Questo sia ben chiaro per tutti. Però io personalmente non sono geloso di nessuno, ho preso tanti di quei colpi, mi sono dissociato dalla sezione aerea di Sassari, ho fatto tanti di quei casini con tutti i miei colleghi radioamatori solo perché non vogliono che io rimanga CB, vogliono che io rimanga radioamatore, capito? Questo è il riconoscimento per tutto quello che ho sempre fatto. Vabbè, è preta con filosofia, tanto si troveranno prima o poi queste persone, claro. No, l'unica cosa è che ci passeranno un po' tutto, ma comunque va bene, quando uno è in regola CB, ma a me pure viene pure domani, a me non ha fatto nulla. Grazie a me, Massimiliano, figurati a me. Figurati a me, te lo dico, io sono CB, non mi sono mai allontanato dalla CB, continuerò a fare CB, ma faccio anche l'animatore, lo devo fare per forza, quindi perché devono venire a disturbare sempre quando ci sono io, o solo esclusivamente quando ci sono io? Non va bene, vai, non va bene, perdonate lo sfogo, ma non va assolutamente bene, perché bisogna essere uomini, persone veramente leali, non dei farabutti che si nascondono dietro il microfono. Perfettamente d'accordo. E vabbè, che ci puoi fare? Purtroppo esistono ancora questi qua, ci sono lì in base radioamatoriali e ci sono ancora tra 27. E già hai sentito, non c'è più nessuno, quindi già va bene così, dai. Ma tutti i denti, no, sfogati. Tanto non ne ottieni niente. Però sicuramente magari già era l'ascolto, capito, già avrà capito chi è. Io Massimiliano, come tutti sapete, non ho peli nella lingua quando devo dire le cose. Lo vedo in generale e me ne assumo le mie responsabilità, se qualcuno ha frainteso, per carità, chiedo. chiedo scusa, però io parlo in generale, ho parlato in generale. È veramente vergognoso che in una città come Sassari, con quattro cani che sono veramente amanti della radio, e qualcuno è anche radioamatore, come me, come Fabrizio, come tanti altri, ci siano ancora persone del genere, che usano la radio come negli anni 80, che a Natale i genitori regalavano a tutti il baracchino. Per fare che cosa? Per entrare a mettere la portante e rompere le palle alla gente che faceva questione. Questo è il significato. La radio è una cosa importante, che io amo da ragazzino, e non mi va che nessuno mi disturbi, capito? La ragazza è proprio Gaia Est. Va bene. Sandro? È sparito. Gigi, ancora ci sei? Ho chiesto anche per te il coso, ha detto lui no, allora gli ho detto di rimandarmelo quell'affare il tuo, sto Claudio, gli ho detto di rimandarmelo, se anche non ho trovato niente di rimandarmelo indietro. Ok, dai. Ecco. Mi sono ripreso un altro modello di visita. Va bene, dai, signore, io vi saluto circolarmente, se coincide tutto le prossimine. Ciao Claudio, ciao. Ancora questa settimana sotto controllo, dice gliel'ha fatto due volte anche a lui poi il problema, il difetto, gli ha cambiato non so che componente e ce l'ha sotto controllo, gli ha cambiato componente, vuole verificare che proprio sia quello che ha cambiato e se lo tiene tutta questa settimana ogni tanto l'accende la sera quando cosa lo lascia vedere se, perché gliel'ha fatto due volte pure a lui, capito il difetto e niente, adesso sta funzionando e prova a cambiare questo componente e ce lo tiro tra la settimana sotto controllo, la sera l'accende e vede un po' se fa il problema, capito? E poi se non lo fa già me lo rimanda, adesso ce lo tiro tutta questa settimana. Ecco. Capra, mi avevi registrato il record? Ehi, va bene, Gigi, dai, ok, tanto fretta non ne abbiamo in tutto quanto. Dai, saluto i circolari, avanti un record. Fa questa parte il grotte. Cambiato postazione, QTH Rockefeller. Dai, riprendo io, ciao Antonio, ben rientrato, vi saluto e mi devo allontanare dalla radio. Dai. Ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltatori del canale 10, Gigi, Sandro, Antonio Rode, compresi. Dai. Vi saluto momentaneamente e mi allontano. Ciao ciao. Ciao Sandro, avanti Antonio Rode. Ehi, ciao Massimiliano, ciao Alessandro. E allora, ma c'è anche Claudio, no? Cla, attenzione Sparviero, negativo. Mi è sembrato di sentirlo, ma c'era Gigi? Era Claudio, forse si è spostato un attimino, io ero mattina al telefono, l'ho ripreso adesso. Però adesso, prima eri più pippante, adesso sei entrato moscio, come mai? Ma moscio di modulazione di voce o cosa? C'è tua, il modo di parlare tuo è entrato proprio, diciamo, non bello squillante, pippante come si, leggermente moscio mi parla. Zotto, come si suol dire. No, sono un po' stanco, non so per quale motivo, però mi ha un po' spossato. È una giornata, io sono meteoropatico, e le giornate così mi distruggono, capito? Perché mi viene questa specie di, fra l'altro dovuta alla cervicale, un po', non sto bene, diciamo, mi dai. Sei come tante le fattore, proprio come sei stato così. No, anch'io, non è, sono bene di tutti, grazie a Dio, però l'ho sentito, la mano destra, no? le dita, le giunture, diciamo, deve essere il tempo, mi faceva male, ho sceso giù per appena di freddo, di cose, di umidità, e mi faceva male, lo sai, tutte le ossa delle dita, capito, mi faceva male la mano. Ho cercato di scaldarmi la riposa, adesso sembra che sia calmato, però deve essere diciamo il tempo, dai, come il tempo, come ha cambiato di colpo, capo. Cioè, ho sceso poco fa giù e devo riscendere che mi sono lasciato le confezioni dell'acqua giù in garage. E sono rimasto senza acqua su a casa, devo scendere in garage e adesso a prendere una confezione e portarmela su. E c'ho paura che sta, non so se sta piovendo o cosa, di prendere nuovamente freddo. Vedrò sorgere, quella si chiama artrosi alle giunture, capito? Quella è la vecchiaia che è carrogna. E già me l'hai messa la malattia, già me l'hai contagiata. Adesso mi sono contattato una persona per farmi dare un paio di chili di quella, per mi vendere un paio di chili di quella roba che sei tu, no? Come di chili di quella roba? Ma di chili di che cosa? Litri o chili? No, chili di bacche. Capito? Anzi, diciamolo, chili di bacche di mirto, sennò chissà cosa pensano chi ascolta. Chili di bacche di mirto perché c'è uno che le vende e che ne fa la raccolta. Ah, ma tu vieni, te li prendi, io te li do. Domani sai dove sono io? Sono da Burgia, sai, Burgia è quello che mi ha dato la ricetta a me del mirto. E cioè, devo portare la pomice per tutta la... Lui c'è un vivaio di mirto, capito? C'è un grosso vivaio, a parte l'altro tema, proprio di mirto, di piante che lui fa il liquore, capito? A me la ricetta, non so se te l'avete mai fatta, Burgia, capito? Lui personalmente. E domani sono da lui, mi devo andare dal suo vivaio, devo portare la pomice per il vivaio del mirto, per il mirto, per già un vivaio enorme, tutto piante di mirto, capito? E lui fa il mirto, quello, e viene tanto di pure fa Burgia. Ma me l'avevi detto, era quello del liquore strega, no? Se non sbaglio. Sì, già me l'avevi raccontata la storia, devo essere una persona davvero appassionata. Gigi, non ti ho... Io mi metto nella condizione, quando una persona come te è gentilmente, o meglio, squisitamente gentile, non bisogna mai approfittarne. Siccome quell'albero già ne approfittano i vicini di casa e tutti quanti, ricordo ancora l'anno scorso che te l'avevano rappato a zero. Non è il caso, dai, ci mancherebbe, quello lì è la tua provvista personale, magari vedi se mi serve qualche foglia, magari ci passo a prendermela. No, se ne problema. No, a volte mi dicono, ah, mi serve un rametto, com'è fatelo, non le controllo, e tagliale, mi stavano svuotando da tutto da parte davanti, tagliavano a rami cruci per di Natale, di cosa, hai capito, per il porcetto e per il coso, e mi stavano rovinando la pianta, caro, taglia a taglia, capito? Già me lo ricordo, che è successo poco dopo il fatto di quando sono venuto lì a fare il mirto, che te ne avevano portato via, sfrondato mezza pianta, capito? E vabbè, perché la gente quando gli dai un dito molto spesso se ne prende il braccio, cosa vuoi che ti dica? Claudio, sei rientrato? Negativo lo sparviero. E va bene. Chi è rimasto in ruota, Gigi? Tu e le rosse. Sicuramente siamo rimasti noi due per il momento. No, non c'è problema, già ce n'è qualche, ce ne sono, ne ha messo tutto, tanto io non lo consumo tutto, Antonio, non ce n'è problema. Tanto si fa a Natale, capito? Prima di solito sempre il 22, per quei giorni lì sempre lo raccolgo io, lo metto sempre quel periodo, in quei giorni lì, lo sai, me lo ricordo sempre in quei giorni, il 20, quel periodo lì, capito, le raccolgo io le pacche. Allora, io mi ricordo perfettamente la ricetta. Però non mi ricordo, ogni litro fatto, sto dicendo, quanto ne mettevi di zucchero? Le litro di alcol, ma è a gusto. Allora, la cosa giusta, dice la ricetta giusta, è 900, però anche Burgia mi ha detto 800, 700, dipende da come gli piace. Io metto 800 grammi, e anche 700 dovrebbe andare bene, perché molto dolce non piace a me, dipende dai gusti, se uno lo piace molto dolce o meno dolce. La ricetta, la giusta è 900, io 900 non li metto perché c'è troppo, io metto 800 grammi sul litro, 800 grammi di zucchero, capito? Ma lo tagli ogni litro uno e mezzo di acqua? Sì, ogni litro un litro e mezzo d'acqua sciroppare, capito? Allora, un litro e mezzo d'acqua, aspetta un attimino, che mi stai confondendo le idee. Allora, su un litro e mezzo d'acqua che metti a sciroppare, 800 grammi di zucchero, su un litro e mezzo, mi stavo confondendo io, Allora, 1,5 litri d'acqua, 800 grammi di zucchero fatto sciroppare. Cioè, quando è freddo lo devi ammischiare, non quando è caldo, quando raffredda, capito? K di Roger, e poi ci metti il litro di alcol. Bravo, bravo. E il litro d'alcol che insieme alle pacche che già fatto, dai, già messo a macerare, dai. Con la. Poi devi comprare anche il turno, se il turno mi pare, giusto? K di Roger, ce l'ho qua a fianco. Si chiama il Tommy. Tommy Small si chiama. Il torchietto. È positivo, positivo. No, è 20 giorni, passano 20 giorni, io lascio 20 giorni. Tanto a macerare, e ricordati, metto nell'alcol le foglie prima e le tolgo subito, ricordati, metto, passano un giorno le foglie, mi siete ricordi, per farlo anche quello bianco, la stessa cosa, ma devi mettere le foglie nell'alcol un giorno prima, o anche due giorni prima nell'alcol, e poi quando lo metti nelle macchie le togli le foglie, che gli hanno dato già il gusto buono, è quello che lo fa buono il mirto, hai capito? Le foglie. Però adesso stai svelando la ricetta, hai detto a me di non dirla a nessuno, adesso te ne stai facendo promotore, io ti ho detto già me la ricordo per non dire altro. Segreto, questo è il segreto di Muccia, io spero che questo signore ogni volta che vado lui mi vorrebbe dare altre ricette, però l'ultima volta che sono andato, dico la verità, l'ho trovato molto male perché ormai si porta appresso le bombole dell'ossigeno e senza le bombole non può essere attaccate appresso, respira con l'ossigeno, capito? E l'ultima volta, ogni volta che vado vedo se lo trovo sempre piccio, perché è stato questo lui che mi ha dato questi consigli come farlo, capito? Per farlo per me, per casa, è lui che mi ha dato queste ricette, questi consigli come farlo, capito? E vabbè G, però mi hai detto anche che questo qua c'ha 90 e passa anni. Non so, sembra che c'ha 90 anni questo uomo, però bisogna vedere se perché è malato. Prima non era così, adesso l'ultima volta era con le bombole, parlava, c'era un respiro, madonna, l'ultima volta ci sono andato, perché prima non ce l'aveva le bombole, c'aveva le bombole dell'ossigeno appresso e l'ho visto un po' male, dai, l'ho visto molto male. K di Rogero, quando vedi qualcuno con le bombole che non fa il subacco sicuramente non è un segno, un coso positivo, dai. Chiaramente scherzo, però se c'ha 90 anni la sua vita se l'è vissuta e non dico che sia vecchio perché ormai non esiste più la parola vecchio. Io mi ricordo che quando è venuto a mancare mio nonno che aveva 80 anni, tutti dicevano ma perché già se l'ha vissuta è vecchio, oggi se vai a dire a uno di 80 anni che è vecchio ti prende a schiaffoni. Non so, penso che ne abbia anche di meno, perché prima era più giovanile, adesso ho la malattia che l'ha portato sempre così vecchio, hai capito? Non lo so l'età di precisa, però dimostra sulle 90 anni così, però se poi perché è malato, quello e quell'altro non lo so. Va bene, ma lui non ho capito se era il proprietario del liquore strega o se era lui che aveva fatto la ricetta. Qui è il padrone, dottor Muccia, il nome non me lo ricordo, dottor Muccia, è lui titolare, è lui che ha le cose dei liquori, è lui che le ricette, come si dice, le cose le fa lui, il liquore, diciamo le luci, le cose le ha decise lui e diciamo poi ci sono altri che lo fanno, diciamo gli operai come poi li ha detti loro, però il coso era lui, diciamo non so come si fa chiamare, quello che fa le cure come si chiama non lo so, comunque è lui che ha le piantagioni sia del mirto e delle altre erbe che fanno il cure, capito? Ecco, ma chiamiamole miscele, dai, che miscela i componenti. Allora sì, ma tu immaginati, il liquore strega adesso non è più in uso, però c'è un concorso letterario famosissimo, internazionale, che si chiama ancora il concorso strega. Ha già tutti fatti così, lui è attaccato a fisici, vede che vai dentro. E io da piccolino, io ho 57 anni, io da piccolino, da ragazzo, già c'era questo del cuore strega, io me lo ricordo come che sia oggi, lui c'ha tutte le cose, tutti i cartelloni, tutti appesi dentro, no? E diciamo, è un villaggino, è in periferia, e c'è un vivaio, tu guarda, un vivaio di impianti di come so può essere l'albero mio, no? Ma un vivaio che non riesce a vedere a vita quanto dove la fine di quante altre piante ci sono. Capito, Anto? E lui fa il cuore, fa il mirto, non è buono il suo, però lui mi ha dato il segreto per farlo buono in casa, per avere un buon liquore, mi stava dando ricette di altri liquori, e poi non le ho prese, dai, perché lui mi aveva tutte scritte come le ricette, ma tante altre cose che io adesso, se mi pare, te l'ho detto, però qua non l'ho detto in radio, però c'erano altre cose che dovevo fare per recuperare ancora, capito? Sì, assolutamente, già me lo ricordo. Già lo ricordo. Niente, no, quella ricetta è ottima. L'unica cosa è che dopo 20 giorni è ancora cruda. Noti una differenza tra i 20 giorni e i 40 giorni che è devastante. Cioè, una volta che tu lo filtri e lo misceli, lo metti nello sciroppo, dopodiché devono passare, secondo me, un altro po' di giorni perché si leghino tutti i sapori, perché sennò è slegato, sembra quasi acqua sporca, capito? Io voglio di più, no, ma già, visto, io quello che faccio io sempre lo stesso, sempre preciso, sempre identico. No, lui me l'ha detto, diciamo, il giusto è 900 grammi su un litro e mezzo d'acqua, è 900 grammi. Però dice, lo fai a piacere, puoi mettere 800, 700, dipende se ti piace dolce, meno dolce, dipende come ti piace, capito? Qua di Roger, dimmi una cosa, cosa stai trasmettendo oggi? Ah, a proposito, mi si è piegata l'antenna in via degli astronauti, vaffanculo, il palo si è piegato, un bel vento stava facendo. Non sento male. No, tu stai uscendo benissimo, io stavo chiedendo appunto con cosa stavi uscendo, perché stai uscendo bello potente. Sto un po' più infatti pure, no, è una radio che io non adopperò mai. Ho capito, è una radio, un baracchino, è un affaglietto, un baracchino che ho qua, che ce l'ho e non lo attacco mai, però adesso l'ho attaccato, l'ho messo, non so, 8 fatti, 10 fatti, una cosa del genere, non più di così, no, sono a metà i fatti, dai, io volevo anzi a 15 fare o 25, se lo volevo, perché arriva da 1 a 40 fatti, questo è il potenziometro, è suo, però ci trova a casa così, però io da dentro l'ho abbassato e l'ho fatto mi pare a 25 o 15 al massimo, comunque a metà fatti, sto facendo a metà fatti, un baracchino, era una radio che è abbastanza selettiva, è abbastanza ultima, dai. Vabbè, non lo dico che cosa era. E cappa, comunque stai arrivando qua zona inizio Viale Italia con un Santiago di 9.5 a picchi di 9.10, una radio 5 bella corposa tua. Ti ho visto avantieri risalire da Charlie Alfa verso che ore saranno state? Le 7:30, una cosa del genere. C'avevi la targa accesa, ti ho incrociato, tu che salivi, io stavo scendendo. Ma allora giovedì mi è incrociato, ho detto tardi, giovedì. Cappa Roger, esattamente giovedì, perché venerdì mattina avevo l'esame, quindi sono sceso giovedì notte. Sei rientrato tu giovedì? No, negativo, stavo scendendo perché avevo l'esame venerdì mattina, quindi stavo scendendo giù giovedì per dormire lì, capito? L'esame è rientrato vicino a Sassari. Ti ho incrociato sulla 131, è che non ho più l'apparato in macchina, capito? Oddio, io stavo rientrato dalla zona di Scaglia, mi ha fatto tardi pure il giorno. Infatti non ti avevo mai visto con la targa accesa, cioè con la targa, con il nominativo acceso, capito? Non lo accendo mai, solo dentro di notte, la mattina fredda è accesa. Cappa di Roggero. È stancante, io non so davvero come facciate, poi un casino quella strada, guarda, è sempre peggio. ho visto l'ultima parte adesso, prima c'era la zona, la parte centrale vicino all'Oristanese a Casino, adesso c'è tutta la parte di giù vicino al Cagliaristano che mamma mia, ma non li finiscono mai i lavori su questa strada. Quello gioco, io te l'ho messo uscito, cioè, da questa parte in fatto, ero da Siui, capisci? Da Siui, e ti dico ho dovuto fare perché avevo un fatto da caricare a ruina, da Siui, che è nella zona di vicino Petra Tebu, quelle zone di su, e sono uscito a 6 in Ghirazza, ma ho fatto tutte le strade brutte di montagna e di cose di all'interno, ho attraversato la Sardegna all'interno, non sulla 131, all'interno. E va bene, questi sono i danni fatti dalla famiglia Agnelli, lo sai, perché il trasporto su ruote, su gommato, diciamo, cioè su commotrice al pari di quella che c'hai tu, in una nazione come l'Italia non ha motivo d'essere, nel senso che se non ci fosse stata gli Agnelli a cercare di, come hanno fatto sempre negli anni, di evitare che la rete ferroviaria si completasse in modo particolare, i trasporti sarebbero stati quasi tutti su rotaie. Invece abbiamo la rete ferroviaria che fa pena e gli Agnelli dovevano vendere le motrici in Iveco. Tant'è vero che quante motrici ci sono infatti in Italia rispetto a quant'è la rete ferroviaria, ma noi avremmo potuto fare i trasporti sulla rete fluviale anche italiana, però i mecenati del petrolio non avrebbero potuto guadagnare, capito? E purtroppo è molto pericoloso il trasporto su gomma, oltre che inquinante. Invece ti avremmo avuto ferroviere, saresti stato anche meglio, un attimino più sicuro magari. È positivo, positivo. Ho già fatto anche un altro lavoretto in questa radio e ho... Ma tu, ho fatto anche un altro lavoretto, se lo vedo... Cosa? Che accendo la luce, sono al buio. E io ho fatto questa cosa che ce l'aveva già lì incorporato dentro. Questo qua l'ho appena un po' abbassato di piccolo. È una camera ecco, che cos'è? Ma un bel effetto, almeno gradevole. Aspetta un attimino che... Ah, ecco perché Claudio è su altre frequenze, dai. È su altre frequenze, lo sto sentendo adesso. No, ce l'aveva già, però era molto forte. Assolutamente sì, absolutely, dai, vediamo un attimino. Ma a proposito, tu quando inizi a farlo il mirto? Io non l'ho raccolto mai, perché non è maturo bene. Quel periodo lì c'è, cos'è? Santa Lucia, per fare quello cos'è. Santa Lucia quando è? Oh, G, ti devo mio malgrado abbandonare perché mi hanno chiamato per la carica batteria, anche se è decisamente presto, però... Oggi no, ho voglia proprio di coricarmi presto perché sono completamente stordito dato alla cervicale che non sto bene, dai. Ti ringrazio per il QSO e ci sentiamo in questi giorni, nel caso dovessi avere bisogno, dai, due foglioline vengo a rubartele. Sì, ma tu guarda, io tu guarda sotto ci sono quelle tenere che stanno uscendo sotto, ci sono le foglioline tenere. Perché si fanno le primavera, però sotto ci sono cose che stanno uscendo, quelle sono più secche, perché sopra sono più secche, però sotto vedi sono dei ramettini attaccati giù al tronco, giù proprio sotto, ci sono dei ramiti verdi proprio tenere che sono usciti, quello è migliore, anche se non ci sono cose, fai direttamente, c'è il problema, capito? Oggi non è urgente la cosa, non mi permetto, anche se me lo stai dando adesso il nulla osta, però non è il caso, dai, ci mancherebbe. Ci passo un giorno che ci sei tu e ne raccolgo un pochettino, non ti preoccupare. Ti ringrazio ancora, dai, per la chiacchierata e ci sentiamo dopo se coincide, ma non credo perché, ti ripeto, sto mangiando, sto facendo carica batterie per cercare di coricarmi un attimino prima. Ciao. buon ripresa di trabacco per domani. Domani che cos'è? Domenica, sì. Domani è domenica. No, domani è lunedì, quindi buon ripresa di trabacco per domani e ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, scusa. Comunque ricorda che quando devi fare le foglie devi avere l'alcol, le fai e le rimette dentro, senza lasciarle ore e ore da parte. Tu le togli dalla pianta e ti rimetti dentro la bottiglia, già sai come si fa. Hai già capito come si fa, capito? Ando. Va bene, dai, fai buona carica, buon riposo e buon tutto. Ciao. Andu. Già lo so come si fa, che ho avuto un buon maestro. Ciao.